One, two, three, four. Anche ieri, rientrando in diretta, approfitto per riproporre un brano da Black Classical Music. Youssef Deyes a fine anno arriva con questa proposta. Non faccio più le classifiche, ma sicuramente se ne avessi l'attenzione, questo tra i primi cinque indubbiamente, e di classicità parleremo, seppur in maniera atipica. Ho dato uno spazio in altri suoni per la musica elettronica in Grecia e a quanto pare ci torniamo con questo artista, almeno per quanto riguarda l'aspetto non solo di nascita ma di inizio carriera. Ora pronuncia il nome all'anagrafe di El Greco. Ci proviamo. Domenico Theotokopoulos. Perfetto, beh, veramente la cultura ellenica ormai è tua. E per quanto riguarda quello che sarà il suo nickname, portando questo neologismo, è El Greco, arriverà fino in Spagna per dare inizio al siglo d'oro, anche quando ancora non si poteva parlare di tutto ciò. Lui sarà tra i primi, magari in maniera inconsapevole, se vogliamo, a dare luce a quest'epoca, perché di luce parleremo, ma soprattutto di un aspetto tonale veneziano, e infatti anche detto il greco in maniera molto più italiana, se vogliamo, e tra le figure più importanti del tardo rinascimento. Ha guardato avanti, come ho detto, non solo per il siglo d'oro, ma con questa linea allungata che lasciava all'espressionismo una previsione per quanto riguarda il percorso artistico, ovviamente a sua insaputa. È uno stile che lui naturalmente portava nel tratto e nell'aspetto cromatico, invece molto vicino ai grandi maestri veneziani, da Tintoretto, che è stato tra i motivi di ispirazione più importante per El Greco, ma non solo, il grandissimo Veronese per quanto riguarda il panneggio, e ci sono famose botteghe dove lui ha avuto motivo di frequentazione nel trasferirsi a Venezia. Infatti lui lascerà tutto in Grecia, Grecia per modo di dire, perché Creta nella parte settentrionale all'epoca era possedimento della Serenissima. Quindi insomma, se tra l'altro ho avuto la possibilità di visitare Creta, Candia è ancora e tutt'oggi, come architettura si percepisce la realtà veneziana, nonostante siamo nel mare Egeo. Dove viene portato in esposizione in maniera così estesa, Viola? A Palazzo Reale a Milano. E a Palazzo Reale abbiamo contattato, anzi hai contattato, sei riuscita a intercettare una voce che ci porti in mostra per quanto riguarda questa esposizione, partendo proprio da un'origine e ovviamente trattandosi di spazi che guardano a Oriente, l'importanza delle icone da cui parte con un approccio bizantino alla sua espressione artistica. Per la prima volta a Milano, Palazzo Palazzo Reale dedica una mostra a questo pittore, cioè El Greco, una mostra che si concluderà a febbraio ed è una mostra molto molto ricca perché riunisce 41 opere di El Greco. El Greco è un soprannome perché in realtà il suo vero nome era Domenico Theotokopoulos, perché era greco, era nato appunto a Creta, a Candia, sull'isola di Creta nel 1541. Ha una vita straordinaria perché appunto da pittore bizantino, perché in Grecia ancora si praticava l'arte delle icone, all'inizio della mostra vengono esposte alcune delle icone di quell'epoca, ma appunto da questa partenza, questa era appunto la scuola cretese, un po' madonnari venivano definite perché avevano una sorta di tipologia devozionale molto legata alle icone bizantine, quindi immagini molto piatte, frontali, astratte, staccate dal contesto realistico, senza volume, spesso col fondo oro. Ma il nostro, per compiere la sua formazione tra il 1567 e il 1570, viene in Italia, in particolare a Venezia. Ecco, Venezia in quel momento era la patria della pittura tonale, era ancora vivo Tiziano, che aveva rappresentato davvero il culmine di questo percorso e aveva lasciato una scuola enorme con tantissimi allievi, con tantissimi imitatori o comunque tanti che si erano ispirati a lui. Ma quindi il nostro El Greco, perché si chiama El Greco allora invece di Domenico Theotokopoulos? Viene chiamato El Greco perché dopo una prima formazione italiana durata appunto 3 anni a Venezia, poi si sposta a Roma, dove ovviamente entra in contatto con le classiche, le sculture evidentemente e il michelangiolismo. Lui di Michelangelo apprezzava in particolare il chiasmo nei corpi, nella postura dei corpi e ovviamente il trattamento anatomico. Dopo aver fatto questo soggiorno veneziano, dove non riesce a ottenere le committenze che sperava di avere, perché in realtà c'erano già troppi pittori più importanti di lui, più conosciuti, più affermati di lui, allora se ne andrà prima a Roma, vi dicevo, poi si sposterà a Toledo in Spagna. Ecco perché viene chiamato El Greco, perché ovviamente era il pittore greco alla spagnola, come dire, quindi è difficile da identificare, bizantino ma con formazione italiana e poi una lunghissima attività, 37 anni di attività in Spagna. E adesso tocca a me mettermi alla prova con i nomi di etimo ellenico. Vassilis Strabopoulos per ECM Record. E questo pianista minimalista, considerato uno dei massimi esponenti per quanto riguarda musica contemporanea di origine greca. Questo è un piano trio tra i più classici, che va a corredare con il contrabbasso di Harild Andersen e la batteria di John Marshall. Kirana è il disco, è uno dei dischi, sentiamo qua, dai chiaroscuri che ci vengono proposti, dall'aspetto minimale delle note. Chiaramente questo non c'è bisogno neanche di citarlo, ma è una produzione ECM. grazie Paolo, auguri anche a te, buongiorno Willy, buongiorno Viola, tanti auguri di buone feste a te e a tutta la banda di Fujiko. Arrivano anche gli auguri, baby. Questa è l'ultima puntata per il 2023 della rubrica In Mostra. Due territori che ho nel cuore, cioè la parte di Basso Polesine, il capoluogo rodigino di questa terra di dualismi, di contrasti e di estetiche uniche e speciali, e poi ci siamo spostati nel Mar Egeo, tutto il Dodecaneso, fra l'altro questa striscia di isole che sono chiave d'accesso anche con l'Oriente, e Creta, isola che con la cultura minoica e non solo, con diverse tradizioni di intersezione culturali, ha dato splendore estetico e storico a quest'isola Creta, l'isola dove Minosse portò la tauromachia, dove la cultura bizantina arrivò nell'arte non solo figurativa, le grandi icone, i bellissimi tramonti in Grecia, insomma ce ne sarebbe da parlare veramente in maniera più che mai estesa. E poi i natali a El Greco, in questo caso ecco, mi appello a te per le date, la mostra in esposizione fino all'11 febbraio 2024. Oh, ecco. E poi ricordo che in sede espositiva Palazzo Reale troviamo, a proposito invece di Spagna, il Goya. Anche questo potrebbe essere per la prossima stagione motivo di presentazione. Curatore per l'esposizione El Greco parla solo spagnolo e non era disponibile, quindi noi siamo riusciti a intercettare dalla storica dell'arte Raffaella Arpiani un motivo di approfondimento. Caratteristiche dell'esposizione, Viola, qualcosa da aggiungere per El Greco a Palazzo Reale? No, in realtà se andate sul sito è spiegato veramente molto bene, anche tutte le sezioni è fatto veramente molto bene, e no, il fatto che il tema diciamo di base è il labirinto, appunto riprendendo il fatto che El Greco viene da Creta, l'isola di Minosse, quindi del Minotauro eccetera, e l'ultima opera in mostra è il Laoconte, quindi per riprendere il tema mitologico è appunto il Laoconte. Temo gli Achei anche se portano doni, no? Quello che è stato la risposta del Laoconte, che poi subito fu considerato portatore anche lui di sventura come Cassandra, tutt'altro invece la storia insegna poi con diversi percorsi. È questa l'opera che chiude l'esposizione di El Greco, ma noi continuiamo in questa piccola biografia portata dalla voce da noi contattata per concludere la presentazione dell'esposizione a Palazzo Reale di Milano. È davvero difficile considerarlo un artista che lavora alla fine del Cinquecento e nei primissimi anni del Seicento. Muore nel 1614, tra l'altro 4 anni dopo Caravaggio. Eppure, quando vedrete il corpo delle sue opere, saremo ancora un pochino più in difficoltà. Nelle prime sale vediamo appunto la sua produzione ancora cretese. Erano scenette piccole, formato piccolo, perché nel primo periodo questa era la sua attività. Questi sono già gli anni in cui è attivo a Venezia, ma perché ha dovuto lasciarsene Venezia per Roma, dove c'era l'ambiente dei Farnese che l'aveva accolto insomma in qualche modo in senso positivo, e dove i Farnese si erano circondati di artisti di altissimo livello che lo influenzeranno tantissimo, perché ovviamente a Roma in quegli anni era esploso il manierismo e quindi lui aveva potuto ammirare le opere dei vari pittori. A Venezia ovviamente aveva ammirato le opere di Tiziano, Tintoretto, Veronese e i Bassano, mentre nel suo passaggio a Roma, nella discesa verso Roma, si era innamorato di artisti manieristi come Parmigianino e Correggio. Lui diceva che Correggio era un po' superiore a tutti gli altri. Perché aveva lasciato Venezia? Vi dicevo perché Tiziano era vivo fino al 1576, Veronese sarebbe morto nel 1588, Jacopo Bassano sarebbe morto nel 1592, Tintoretto nel 94. Lui, stanco di aspettare, nel 1577 si trasferisce appunto a Toledo, dove resterà per 36 anni, quando aveva 36 anni in realtà, e ci resterà per 37, sperando di diventare il pittore della cattedrale di Toledo, che era un incarico che poteva essergli fornito da il re Filippo II, che però non avverrà mai, quindi in realtà il nostro non realizza mai i suoi sogni. Alcune sue opere dimostrano la sua conoscenza, il suo passaggio dalle primissime fasi alla formazione latina, cioè all'essersi imbevuti di pittura italiana. Impostazione con la prospettiva centrale brunelleschiana, con la pittura tonale veneta, con l'ambientazione scenografica, perché le scenografie mancavano ovviamente nelle icone che erano state fatte parte del suo percorso di formazione. Tema della mostra è quello del labirinto. Perché labirinto? Perché è un artista che nasce a Creta, si porta appresso mito del labirinto, ovviamente di Dedalo, perché la mostra in realtà si concluderà con l'unica opera a tema mitologico ritrattata da El Greco, che è il Laocoonte, ed è un'opera che è straordinariamente moderna e ancora misteriosissima per gli studiosi. Kill Rastafari, the original king, balancing the spirit with material. Been through it all, so many times I fall, still it made me strong. Oltre che l'idea del labirinto, che è veramente seguire la carriera di questo originale artista, uno di quelli che appunto più volte portato nella rubrica in mostra, perché studiarne le sfaccettature è veramente motivo di crescita in diversi motivi di ispirazione artistica. El Greco a Milano, a Palazzo Reale, siamo giunti al termine, Viola. Io ti ringrazio tantissimo per grazie la curatela invece delle interviste che non solo hai strutturato, ma che hai anche suddiviso per argomenti. Ti do appuntamento al prossimo giovedì in mostra, ti auguro ovviamente radiofonicamente, e poi ovviamente mancherà anche di ci sarà anche di persona, buon Natale e buone feste, come si dice, a te famiglia, no? Esatto. Perché tutti odiano a te famiglia? Cioè non ti sto mica dicendo muori affogata nel tuo vomito, cioè sto dicendo auguri a te famiglia, perché è così, e c'è tanta repulsione davanti a questa frase, però boh, non lo so, comunque è quello che ti auguro sinceramente di cuore. A voi ascoltatrici e ascoltatori della rubrica in mostra, vi aspetto in scena per domani, dove con Ascanio Celestini allestiremo un originale presepe. Concluderemo così il 2023 prima dello stacco natalizio e festività 2023-2024, le prime colazioni in diretta, tra poco Edipè Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquale. Ora tocca al tuo lavoro per quanto riguarda il podcast. Vai. E inizieremo questo nostro giovedì. Fino adesso ci siamo divertiti, esatto. Dai, capito? E un buon ascolto e una buona giornata. Buon Natale, ciao. Buon Natale. No, io buon Natale ve lo do domani. Viola adesso. Io adesso. Buon Natale, buon anno. A voi e? A voi e famiglia. Oh, adesso. African Nasofano. Rastafari deliver me. Alice Lassie deliver I. Oh, deliver I. Alice Lassie deliver I.